Ma chi ha detto che c'è uno? Ho detto uomini. Appunto, io sono uomo, ma chi ha detto che c'è uno? No, io c'ero un po' di niente. C'era una bella. Allora, andiamo a capitolini in Descarno. Stiamo provando. è il sentimento più un incremento ascensionale emozionale in questo momento in cui la sedicente sinistra mostra il suo volto sinistro. Ma chi è Moretti? Ma chi è Moretti? In memoria del grande Claude Edi, manifesto del giustismo, fondazione 1983-1994. Avevamo vegliato noi giustisti sui vostri avanzi, rigenerando quello che avete gettato, ed ogni forma d'arte è stata proclamata. I poeti disgustisti sono nipoti del futurismo e dadaismo, cugini del punk e figli del ricetto di stomaco. Per i nuovi no poeti usano linee asimmetriche baciate, leggono senza intonazione. Idioti geniali e grandi menti, provocanti e provocatori, sono l'ultima sponda vicino alla discarica dei rifiuti solidi urbani della letteratura italiana. Disgustismo, disgusto per l'arte o l'arte del disgusto, ai malati terminali l'arte la sentenza. È l'inizio del manifesto di Claudio e il disgustismo, poi dura 86 pagine, quindi parli di... grazie. Dovete comportarselo tutto e ce ne fa un resoconto. Seguo un elenco dei poeti disgustisti partecipanti. Va riassunto. Posoloschi, Rettuno, Mitroembo, Gervitos, Ermedicus, Mato a Luci, Pino Intes, Tecnociccio, Viene Lungo, Ferdixon, Oriente, Dieter Kraft, Nino Adispoli, Erasmo da Rotterdam, Stefano Ricci, Cristina Minucci, Patrizia Pranzo, Max Bruscuni, Edoardo Dell'Acqua, Pittone, Sandro Santoro, Giancarlo Roma, Maimonito Montedaga, Federico Ramuto, Claudio, Alessio Evangelisti, Fabio Meloni e Tullio Lucido. Vabbè, questo era l'elenco dei discorsisti partecipanti della volta, che non so quando è, esatto. Il microfono sta a posto, dato, non ci sono più. Sì, tanti poveretti ormai non fanno più parte del movimento, non hanno più un movimento proprio. Non si muovono più, la cosa più bella. Questo è sempre della parte di... Volevo sapere anche... Ricaverò inizialmente questo presentatore è più bravo di Pippo Baudo, ma per chi ancora non lo sapesse è una rivelazione. State attenti perché dovrò pubblicarlo. Non è meglio. Vita segreta della gallina. A 150 la gallina canta, fin qua siete davvero tutti quanti, ma 324 la gallina fischia, 675 la gallina si iscrive alla scuola radio elettra, 567 la gallina assume farmaci, 980 la gallina assume dipendenti, 333 la gallina prende una paglia, 700... Ok, non mi sembra di dire un po' detto. Ma scusa, non chiedo a barbiere ultimamente, però perché non con me. Madonna. 787, la gallina rimette a posto la faccia. 775, la gallina colleziona dischi di Nico e Gabbiano. 887, la gallina prende il diploma della scuola radio elettra. 232, la gallina prenota una vacanza in Sardegna. 553, la gallina costruisce una radiolina con le istruzioni della scuola radio elettra. 397, la gallina compra una radiolina già fatta perché la sua non funziona. 332, la gallina che in guardia in vista devi trovare la no, tranquillo, guarda, c'è problema, io non assorbo tutta, però lasciami le mie... Prego, no, è carità. No, io ma assorbo tutta, però lasciami le mie illustrazioni. Saremo sul palco a reclamare. No, e poi sarà turno nostro. Stiamo più a faticare a lavorare. La gallina è strada il numero, ma l'ho scontato. 332, se non si capisce. La gallina organizza scherzi telefonici. 590, la gallina partecipa a una gita di un giorno ad Assisi, 19.9 tutto compreso, con dimostrazione di coltelli da cucina senza obbligo d'acquisto. 666, la gallina capisce che Dio non esiste. 007, la gallina capisce che James Bond non esiste. 980, la gallina fa causa alla scuola radioelettra. 556, la gallina dichiara che non andrà mai più in Sardegna ad agosto. 776, la gallina disegna Madonna con gesto di marciapiede. 443, la gallina quest'anno i regali di Natale decide di comprarli a ottobre. 132, la gallina si dimentica del mio compleanno. 444, la gallina brucia il diploma della scuola radioelettra. 443, la gallina beve amaro cola. 887, la gallina si compra gli occhiali a raggi X. 555, la gallina leva scimmie e animali. 908, la gallina utilizza la crema per lassodare le cosce. 188, la gallina diventa ossessiva. Non c'entra niente, però fatta vicino a casa mia e accidentalmente schiaccio la gallina. Che faremo un'ottantina di per uno, se siamo pochi. Qui riserverò per il secondo turno quello sull'amore, ma vi leggerò una piccola fiaba che ho scritto questa mattina mentre bevevo il caffè e altro. È la storia della principessa Media Chiara e il principe Rosso Antico. È una storia, diciamo, che si differenzia leggermente dalle fiabe classiche dove tutti i personaggi sono perfetti, bellissimi, principesse strabiche, principi palestrati. Questa è una cosa più bella della viveva un tempo, ma in un tempo non molto lontano, diciamo un po' di tempo fa, una principessa. Il suo nome era Chiara e non era molto bella, ma nemmeno brutta, diciamo media. La principessa Media Chiara. Se questo lo posso, non lo so. Ma perché te lo posso togliere? No, è stata è con me. Ella era vestita con vesti non pregiate, ma nemmeno povere, diciamo medie. Ed era tenuta prigioniera nella torre di un castello non troppo lontano, ma non nella torre più alta, in quella media. Guardata a vista da un drago di medie dimensioni, le cui fauci sprigionavano fiamme non troppo calde. La notizia della sua prigionia si sparse in un tempo ragionevole fra gli uomini di mezza età della contea, i quali ponderarono per un tempo non troppo lungo ma nemmeno affrettato, diciamo meglio, e decisero che chi l'avesse liberata l'avrebbe sposata dopo un opportuno fidanzamento di media durata. Partì quindi senza fretta, dopo l'aperitivo, l'antico principe rosso. Dopo un viaggio di media durata, senza troppi pericoli ma nemmeno liscio liscio, egli ingaggiò col drago una lotta di media intensità, al termine della quale il drago si arrese e lasciò libera la principessa Chiara, alla vista della quale il principe rosso fu mediamente contento. La media principessa gli dette un bacio moderatamente appassionato, senza troppa lingua, e il principe ebbe un'erezione, ma non gli venne proprio duro, piuttosto direi meglio. I due uscirono insieme dal castello, attorno a cui si era radunata una piccola folla di nani medi e giganti medi, entrambi alti 1,70 m, e animali comuni. Presero in affitto un appartamentino con un contratto di media durata e vissero per un tempo mediamente lungo, felici ma senza troppo entusiasmo, con alti e bassi, le solite cose, d'altronde questa è la vita. Grazie. Prima di lasciarvi, perché vorrei abbracciare, no? Lasciare il posto. No, un euro da pillare, non è. membro. Membro. Sì, membro. Membro. Volevo facilitarvi la vita sciogliendo un momentino, non andando, ma così diciamo semplificando alcune ossessioni che almeno a me mi hanno rovinato l'infanzia, cioè gli sciogli lingua. Cioè mio padre che tutte le sere per andare a dormire faceva dire tre tigri contro tre tigri, una cosa terribile. Quindi io l'ho facilitato in questo modo. 32, eppure un altro cittadino di Trento, giunsero nel loro capoluogo ognun cavalcando, ma senza galoppare. Un felino striato di nero affronta un suo consimile. Superiormente al sedile, l'ovino barbuto sopravvive, viceversa egli decede. Tito, vedo che ti impegnassi nel pittare la copertura della tua casa, ma non mi pare che tu sia esperto in pittura di sommità di case. L'ultimo. Nel caso in cui il più importante prelato di Costantinopoli decidesse di rinunciare al suo incarico, vi comportereste nel modo siccome egli fece? Grazie. Per dovere di anzianità, in senso proprio così di età, anche se non si dovrebbe dire l'età delle signore, chiamerei sul palco il grande Tito Inter. Grazie. E poi dopo che scappa la... Ma funziona, scusa, Mi sentite? Benissimo, va così. Vedi? Mi sentite? C'è io. Sì. Mi sentite? Sì. Ormai questo basso, questo microfono. No, ha chiamato me gentilmente perché vista l'età c'ho la prostata, ogni tanto devo andare. Io sono un po' intestinale. Tino Inter. Interinale. Mi scappa da cacare. La carta ce l'ho, Allora, mi scappa da cacare, amore santo. Lo so che sei una bomba, un vero schianto, ma dopo cena io te l'ho già detto, c'ho quel riflesso che mi manda al gabinetto. In memoria di questo, tu sbadata, ti sei messa in testa di fatte una scopata. Proposito invitante far del sesso, ma prima mandami a riempì quel cesso. È così bello, amore, far l'amore, se liberi siamo mente e cuore. Ne beneficia alquanto la passione se l'intestino non è sotto pressione. Saran scintille sopra quella branda se prima capo come Dio comanda. Ma la tua mano dolce già palpeggia. Ti prego, amore, almeno una scintilla. Però parlo anche d'altro. Caccola. Tu sei una caccola, tenace nella mia narice, adesa a quella superficie di peli e muco in proporzione varia. Ti sposto ma non fuoriesci, ti palpo e tu intanto cresci. Nutrita come da placenta, stai misteriosa, ti fai più succulenta. Da tempo ormai procede la simbiosi, diventi scomoda, per quanto io non osi fuori tirarti e tutta rimirarti, perché sarebbe, l'ho capito adesso, come staccare un pezzo di me stesso. Restiamo uniti, libidinosa caccola, in questo appiccicoso amplesso. Astri. Astro nascente il nostro amore fu all'inizio, astro splendente di passione e sesso. Astro infuocato, solcavi il cielo mio con l'astronave dei tuoi desideri, ed astronauta ti esploravo tutta. L'astro d'amore purtroppo è assai fugace, astro cadente ben presto egli diventa. Astrologo necessiterebbe per prevenir l'umore tuo, astrolabio dovrei avere per orientarmi tra i tuoi capricci. a stressarmi, tu sei sempre più capace, a stranirmi coi tuoi cervellotici sofismi, a strano il balzo di canguro per non ingravidarti, a strigne stavo sempre per i tuoi ritardi, asteroide quel cagacazzi de tu fratello sempre in orbita in mezza di coglioni, a strappona d'amica tua che mi sblocca sempre le sigarette, a stramaledì quando t'ho incontrata, a strillà come una gallina stai dalla sera alla mattina, Asterix mi preghi sempre accesso, a struccate ci metti in ora prima di venire a dormire, astronomico il conto dal macellaio, a stragan ordini sempre dal pellicciaio, astrale il buco nero della mia carta di credito, a strusciata a mio cugino l'ho beccata 5 o 6 volte, a stronza, ma vedi andartene a fanculo. Ed ora è il punto più alto della mia poetica, Tarzanetti. Un po' d'atmosfera. I Tarzanetti, residui della cacca, imbrigliati nei peli del sedere, fan vita grama, non contano più un cazzo se un intimo lavacro al sasso frasso ne spazza via di colpo le speranze di penzolare ancor tra le mutande. Sono metafora dell'umana condizione, sospesi a un filo con gran trepidazione. Se capiti sul culo di uno zozzone, puoi vegetarci quanto pare a te, scampando a lungo al prossimo bidet. Ma se tra chiappe più igieniste vieni alla luce, è così breve il passo che ti conduce dal nascere al morire in un baleno, e non c'è tempo di aggrapparti ad alcun pelo di quel sedere morbido e rotondo che appena nato ti manda all'altro mondo. Ne condivido anch'io l'aspro destino, e Tarzanetto del tuo cuor bambino, ignoro quanto duri la mia pacchia, se mi cancellerai come una macchia, ed io, povero Tarzanetto della cacca, nella tua vita sarò solo una tacca. Ora, abbiamo deciso ormai. Ecco, a voi ora. Mi sentite? Mi sentite? Sì, abbiamo deciso all'unanimità, non chiama a nessuno, quindi tocca a te. Corrado di Sistruzione. Che questa sera si esibirà con i Merda del Mercane, un nuovo gruppo. Nato per l'occasione, pensate che qui. Credo che seguiamo. Allora, posso far vedere? Mi sta zitto. Indossa i vestiti del dolore, sai dov'è la tua frusta e il coltello tagliente. Conosci la nuova vittima, ignara della tua pazzia, mentre ti masturbi nella follia mattutina, davanti a specchi e musica elettrica. Luci al neon nella stanza, dov'è l'ultimo amante? Allora dalla tua cartina, dov'è ora? Nel tuo frigo? E il suo piccolo e stupido mento e la sua testa rota sul suo letto. Questo è il meglio che c'avevamo. Vabbè, basta. Ma non si interessa questa mano, veramente. Sto cercando. Mi sono perso pure. Ecco. Portami via, bambina, portami via con te, piccola puttana delle scarpe rosse. Sono il tuo vomitevole uomo di merda, senza poesia e parole carine, per trascinarti a letto, delle lenzuola appiccicose di rossetto e pelle nera borchiata. Sono qui, tra i crostini di pelle e profumati di pellicica, cantando una canzone d'amore perduto, tra gli ansianti odori della tua scurigine e l'alito pesante. Che l'alito! Fingi che ti piaccia. Mentre l'aglio danza in padella, nella cucina abbandonata, musica pazzesca, mentre affondo le mie mani tra le tue tante carni, e mi sento allo stesso tempo, e mi sento allo stesso tempo un finocchio dalla camicia rossa e un pappone dalla giacca di pitone. Come un bastardo qualsiasi in cerca di guai, con il suo bagaglio di cazzate e passioni violenti, era una piccola e malvagia, nera marcia. Ascolto dalla radio, che vomita come il più squallido cesso di una qualsiasi città, esplosivo pensiero, mentre davanti a me una mia esplode con tutta la violenza. Grazie. Non abbiamo provato, allora, un po' costruito. Se l'ho studiato non me ne vado. Sì, però... Questo può essere... Susi dice parole insensate di notte, quando mi sveglio. Susi è un'esplosione di follia, quando so che lo prende con violenza e gli piace, proprio più di una volta. Susi dice è un gioco bellissimo. Susi dice sono le porte del paradiso. Susi dice che si è accalata in molti letti e cerca sempre di qualche maschio speciale per farla sentire più attenta e passionale, mentre si fa montare in mille modi i nostri speciali. Susi sa di impazzire, ma quella dice è l'unico modo per venire. Se ne è avanzato pure parecchio per forza, ora l'ho consumato. Povero bambino, lo stai a cercare. Però il migliore lo guarderete, no? Sì, sempre. Dai, Grizzly. Puoi lasciare anche lì. Dai, intanto fare il secondo turno. Beh, era un po' emozionato. Debutto. Buonasera, io sono Amy Cristi. Innovazione. Amy. Cristi. Allora. Vuoi accazzare? Questo si intitola Salvata dal Carnevale. Permettete, ho portato delle basi. Sì, dai, Rosette, sta presa un po' di fettone. Ecco, l'ha spento. Apri le tue porte seriali lasciamo scorrere i bit dei byte in modalità bidirezionale. Se lasciamo che questo nostro rapporto seriale rimanga per sempre nel nostro hard disk. Rimanga per sempre nel nostro hard disk. E dimmi che mi ami, e dimmi che mi vuoi, e dimmi che mi ami, e dimmi che mi vuoi, e dimmi che mi ami, e dimmi che mi vuoi. Estraendo dal mio ultimo lavoro. Vai, tre pezzi via. Tre pezzi via. Me ne manca uno. No, tre pezzi, quella sopra, quella sotto e quella. Ma che tu non hai quello due. Buonasera, permettete che mi presenti, mi chiamo Deborah Proietti, la taglia e fratella. Sapete come vuoi essere una fretta? Un matrimonio che non aspetta. Ci sarà una sposa perfetta. Sarà una bella chiesetta. Inviterò amici e parenti. Mostrerò loro la collina d'oro e il vestito bianco. E mio marito, che si chiama Franco. Lui mi ha preso bastonate e mi ha fissato con la figlia della cinta. E il giorno stesso mi ha messo incinta. Io però sono contenta, perché siccome che non sono tanto bella, sempre meglio che bella. Ho raggiunto anch'io il mio sogno, ed un uomo poi lo voglio. Che però cambiare su cambiare sarà un giorno eccezionale. Me l'ha detto anche nella TV, e gli ho pagato un filtro d'amore di blu. Gli ho pagato anche un talismano, che lo tengo sempre in mano. Passati 10 anni, permettete che mi ami. Ricordate la sposa modella? Beh, al mattino devo una novella, soffro d'ansia e depressione, dico farmaco mi calma, il cervello ma rovello, la famiglia è il mio fardello. Ora abbiamo 3 mocciosi, brutti, asini e catarrosi. Mio marito ha la cirrosi, rompe tutto. Alla neurosi. Non abbiamo riscaldamento e dormiamo su pavimento. Ma non me lamento, ringraziando Dio, perché so che diventerò ricca, visto che stasera ho schiacciato la cacca. tardi, vai. Tu fai. Ma poi di ecco a voi Jerry. Buonasera. Sono molto emozionato. Vorrei leggere una lettera che non ho scritto io. Una mattina sul tavolo mentre stavo uscendo per andare a lavorare ho trovato una lettera. Era una lettera di mia moglie che ora leggerò. Lo amo. Lo amo. Quante volte ho detto, però io quell'uomo lo amo. Ora mi accorgo che avrei dovuto dare più peso a quei però. Quando la notte mi sveglio nel silenzio, sento prima un boato e poi una puzza disgustosa. E capisco che sei tu che scorreggi. E le tue puzze, dopo aver interrotto il silenzio della notte, penetrano sotto le lenzuola e mi stendono. Però io quell'uomo lo amo. Nonostante tutto, io lo amo. C'è qualcosa che è più forte di tutti i silenzi interrotti durante la notte dalle tue eruzioni vocali intestinali. Poi ti alzi, non curante del fatto che sto dormendo accanto a te e dopo avermi dato un aggomitato sulle gengive, ti rechi al bagno. Ovviamente, dopo aver fatto cadere in ordine di apparizione la bajour, la foto del nostro matrimonio e il portaeuro contenente tutte le monetine che vanno da un centesimo a 2 euro. Poi, per errore, entri nella stanza della bimba, inciampi su Bobbo racconta favole e nel silenzio della notte comincia a raccontare la favola del coniglio felice e per le vibrazioni si accende la pianola che si mette a suonare per esteso tutto per Elisa. Finalmente riesce ad andare in bagno e lì dai sfogo ad ogni possibile tonalità di rumore intervallando il tutto con qualche scatarrata. Torni a letto e non ti sei accorto di nulla. Non ti sei neanche lavato bene e puzzi così tanto che riesci ad annullare il tanfo dei tuoi piedi. Alle 7 suona la sveglia, che tu copri con quel bel scureggione mattutino, poi ti alzi, sbadigli e col tuo alito fai svenire la maglioglia e l'edera che si trova nel giardino. Poi vai al lavoro ed io, nonostante che ti amo, io nonostante tutto ti amo, ma ogni volta che esci di casa mi ripeto, oh, finalmente sei andata a fanculo. Sì. Tutto vero, in realtà. Certo. Visto che siamo in atmosfera di Sanremo, vorrei dedicare all'Orchestra di Sanremo. Vai, Pippo. A lui partecipo. Scorreggiando in bicicletta accanto a te. La domenica mattina, dopo il caffè, con l'intestino tenue che si sgrassa e quello grasso che si incassa. Tu chiamale se vuoi, fluttuazioni, scureggiando in bicicletta accanto a te. E vedere la città che si sveglia è un incanto, una magia. Un bambino che defica nell'Ines, prati verdi pieni di cacche di cane, l'odore di merda nelle fogne. E una miriade di piccoli, piccoli uccellini, ma stronzi come aquile, che cagano una raffica sulle teste e le giacche di cashmere. Vola, colomba bianca, vola. Ma caga pure, inseguendo una libellula sul prato, dove qualcuno ci aveva già cacato, e tutto imbrattato, son pure cascato. In questo mondo di stronzi, l'importante è che ci sia qualcuno che perda, e qualcun altro che rimanga nella merda. E domenica ti porterò sul lago, e allora sì che stai bene, puzza di sterco, di fritto, di insalata. In conclusione, per ricordarsi che, finché la merda c'è, lasciala andare. Grazie. Sono in attesa di un malato grave. Scusate, no, non ce l'ho. Copriti bene. Faremo un piccolo esperimento. Il fonico della luce, cioè il tecnico. Il cellulare. d'uomo. Allora, con un po' di silenzio perché potrei spegnere le luci, dove sta? Là. Totali? Totali? Totali! Questo mi riporta nell'ambiente di questi giorni di febbre, quindi reciterò anche con la stessa tonalità, con un po' di silenzio. Salsiccia che ormai da due ore cuoce e lentamente si ritira. Perché, soffro come l'asso. Scusi, signore. Soffro come l'asso di briscola che all'ultima mano viene preso dal giocatore che aveva già perso i punti. Soffro come un coriandolo che malinconico rimane solo sul pavimento di una casa dopo una festa. Soffro come quando lei mi lasciò dopo l'amore senza l'amore. Soffro come il profumo francese che viene usato dai maiali. Soffro come i veri maiali che nascono per morire. Soffro come il vino che ormai chiuso in bottiglia pensa a quando era uva all'aria fresca. Soffro come la chitarra elettrica quando viene suonata da Claudio. Soffro come la morte che nel suo vocabolario non troverà mai scritta la parola vita. Iniziamo un altro giro. Siamo al secondo turno? Ah, fuori quel il primo turno, dentro quel secondo. Grazie a tutti. No, io direi che è il primo turno. Sì. Come a scuola, ricordo. No, io direi che come c'è gente che è arrivata adesso, riconosciamo tutti. No. No, lasciamo qui questa sera. Sentite? Magari senza microfono. Prova senza, prova senza. No, niente. Sentite bene. Dai, volevo dire. Prima di massacrarvi con le poesie sull'amore, che sono raccolte anche le mie, ai voi, ai me, in un fantastico CD che mi vendi dal piano di sopra. Ah, non te lo fai tu, Cristi? Sì. Famo lo stesso prezzo, se no che concorrenza c'è. Cioè. Volevo darvi alcuni ragguagli. 67, la gallina iscrive i figli ai pulcini del conio. 235, la gallina si iscrive al cepu. 155, la gallina si iscrive ai terroristi. 791, la gallina si traveste da donna. 579, la gallina scrive a Maurizio Costanzo. 678, la gallina si masturba con un vecchio numero di Topolino. 356, la gallina odia le labbra a culo di gallina. 821, la gallina odia Maurizio Costanzo. 356, la gallina odia il cepu. 987, la gallina sostiene che nonostante tutto in Italia si vive bene. 345, la gallina sostiene che il calcio è importante per le ossa. 467, la gallina sostiene che il calcio è importante per i calciatori. 323, la gallina sostiene che il calcio sui coglioni fa male come me. 246, la gallina sostiene un tavolo. 113, la gallina sostiene un tavolo pesantissimo. 149, la gallina non sostiene più il tavolo e muore strascicata. E adesso... altri che arrivano adesso, dobbiamo ricominciare quella prima volta. Io già c'ero, ero andato in bagno. Ripeti? No, dal bagno è difficile. Di rumore. Come morta. Adesso una settantina di poesie sulla morte. Lo posso togliere? Non si sente niente, non si sente, non si sente. Come dico qua, è panoramico questo viadotto, voce. Questa è romantica, cercate di entrare nell'atmosfera per voi. Nei tuoi occhi c'è il cielo, nelle tue labbra il sapore del mare, nelle tue orecchie il canto del vento, nelle tue mani un cuore che freme. Nei tuoi occhi c'è il cielo, nelle tue labbra il sapore del mare, nelle tue orecchie il canto del vento, nelle tue mani un cuore che freme. Nei tuoi occhi c'è il sapore del mare. Nelle tue labbra il canto del vento. Nelle tue orecchie un cuore che freme. Nelle tue mani c'è il cielo. Nei tuoi occhi c'è il canto del vento. Nelle tue labbra un cuore che freme. Nelle tue orecchie c'è il cielo. Nelle tue mani il sapore del mare. Nei tuoi occhi c'è il canto che freme, nelle tue labbra il cuore del mare, nelle tue orecchie il sapore del cielo, nelle tue mani c'è il vento. Nei tuoi occhi c'è il cielo, nelle tue labbra il sapore del mare, nelle tue orecchie il canto del vento, nelle tue mani un cuore che freme. Insomma, c'è rimasto libero il culo. Le cose romantiche che mi piacciono. Vero che vi piace, grazie. Ci sono tre scogli là nel mare della vita. Dal primo si tuffa il mio passato, con tutti i sogni infranti e le delusioni che ho vissuto. Dal secondo si tuffa il mio futuro, con i miei sogni in tasca e il mio destino oscuro. Dal terzo ti tuffi tu, che sei il mio presente, e ti sfracelli sulla roccia sottostante. Questo è un ode a un posto. Un posto dove si sta comodi e caldo e tranquillo, luogo ideale. Quindi. Mi accuccio cippo cippo fra le natiche tue, come un gattino nella cesta. Oh, che comodità! Proprio un luogo accogliente qui, nel crocevia perfetto di cosce, natiche e vagina, nella confluenza morbida di effluvi e umori. Temperatura? Ok. Grado di umidità? Ok. Decibel pochissimi, tutto vattato. L'ambiente ideale per passarci la vita. No, non mi disturbate, non mi distogliete. Ah, un'unica accortezza, avvisami se devi fare la cacca. Labbra. Parlami, cara, pendo dalle tue labbra, quelle grandi. Adesso, dedicata a Flavia, che gli piace tanto e credo che sia l'unica al mondo che ama questa poesia. Non sono tante che ci hanno i labbra grandi. Bello te che conosci. Amore perduto. Nessun crede che il mio amore è perduto. Eppure Duto non è male, io l'amo. Ripeti, compra nel CD. Stanno tutte nel CD. Perduto. Viola. Vabbè. Finiamo con una sedia, dai. Dai, una sedia. Una sedia, non ci credete che c'è una sedia, eh? Eppure c'è donna. Lo so, donna può essere seria, però questa è seria. La poesia è seria. È venuto a trovarmi John. John è mio amico. Si è seduto, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Non ho avuto nessun desiderio di fotterlo. È venuta a trovarmi Barbara Sue. Barbara Sue è un'amica, si è seduta, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Avevo una gran voglia di fotterla, ma non gliel'ho nemmeno detto. È venuta a trovarmi donna, donna è la mia ragazza, si è seduta, io ho bevuto birra, io ho parlato. Avevo una gran voglia di fotterla, gliel'ho detto, ma lei non ha voluto. Spero che torni ancora a trovarmi John. Era il secondo Tino Intes, prego. Tino Intes. Meteorismo. Come brezza soave arriva d'improvviso il meteorismo. Può colpirti quando meno te lo aspetti, imbarazzarti coi suoi devastanti effetti. In riunione col severo capufficio può stroncar la promettente tua carriera. In convegni amorosi può distruggere l'amore eterno, splendida chimera. Tollerabile può essere in autobus, non è detto che sia stato proprio tu, ma qualcuno potrebbe indovinare aspirando nei tuoi pressi il gran fetore. Può sembrare a più d'uno un parossismo, anche utile può essere il meteorismo. Vale molto di più della parola se ti trovi con quel vuoto in gola e ti urge qualcosa di concreto. Che c'è di meglio di un bel sonoro peto che liberi la tua pulsione incontrollata? Il meteorismo non è un preludio alla cagata, ma qualcosa di vivo, di assestante, che può durare o vivere un istante. Così come è venuto, fugge d'improvviso il meteorismo, soave melodia che mano lieve arpeggia per ricordarti la vita è poco più di una scuretta. Stitica, come Giove Pluvio quando è siccità, come quella slot machine di Monte Carlo, come il dentifricio di Giancarlo, da te non esce niente. Tu sei stitica di feci e sentimenti, non ti concedi e non te ne lamenti. Ed io che invece t'amo son distrutto, come convincerti che tu per me sei tutto? E sogno di una vita un po' più pazza, che ti riempia il cuor ma anche la tazza. Vorrei eccitarla per istalsi tua con preparati ricchi assai di fibre, esser per te come l'oxiglio e render soffici, voluminose le masse tue fecali, o come rare bacche tropicali facilitarti i movimenti intestinali. Vorrei dare volume alle tue feci ed al tuo cuor, ascolta le mie preci. Ma tu continui ad essere sempre così stitica. Forse è per questo che non mi cadi mai. Allora, perché non si pensi che io sono monotematico? Sbora. Sgorga demente dal mio pisello urente. esce copiosa con forza vigorosa. Raggiunto il K2 amoroso del prepuzio, ne scende da ambo i lati a precipizio, e come neve di un Kilimangiaro esploso, ancora calda, mi glassa tutto il coso. Poche sostanze danno una reazione tale, c'è chi la teme e preferisce il conto anale, e chi la sfugge detestandola un pochino, macchia difficile se sporca il tuo cuscino. C'è chi più o meno inaspettatamente per causa sua ingrassa lentamente, chi la vorrebbe a cena e a colazione con lo stantuffo di un atletico negrone. A me in effetti dà un po' di nostalgia, ricorda la mia scuola e Maria Pia, che fece quella cosa rapida e bella che mi imbrattò di colpo la cartella. Vado a spiegare poi alla mamma: ma questa crema è crema o panna? Sperma, eiaculato, liquido seminale, in quanti modi la si può chiamare? È assurdo starsi a scandalizzare se nella mia incontrollabile pazzia le ho dedicato addirittura una poesia. Si canta la merda che puzza e ancora, non posso dirne una sulla sbora. La carta del mio cane si vuole subire. No, perché no? No, non c'è. Basta, dai. So che ne hai altri. Almeno il musicista. Hai un assolo di 20 minuti. Corrado. Non si faccia pagare. Faccio un B. Faccio un Ildo. No, dopo. Dai. Dai, vabbè, allora chi c'era dopo Corrado? Cristina? No, un attimo che ero preparata, quindi ora vado a prepararmi. Dove? Là. Una poesia anch'io d'amore, bicipiti da impazzire, eh? Sì. Okay. Un attimo, è acceso mia la musica, però tanto non parte. Il Schwarzenegger non c'è. La sei. Wow, è bellissimo, Emma, no, sono strappata prima, ho cambiato un po' posizione, l'abbiamo un po' inclinata. Ecco. Non lo dobbiamo togliere. Stasera sono proprio una tomba, non sto sulla tua stessa onda, ogni mese è sempre uguale, è il periodo premestruale. All'improvviso ti vedo, sei proprio tu, sei stupendo con quella magliettina a palle col cucù, guarda che magnifici dettori mi fanno dimenticare le tue orrende adenoidi. Da impazzire, se li tocco mi sembra di svenire. Ah, che sensazione, che passione, e mentre con libidine ti odoro il collo, un pensiero premestruale, devo pagare il bollo. Guardo meglio e mi sembri di nuovo un tonno. 7. Ah, qui mi devo togliere la camicia. Ah, oddio, non c'è la centrale. Quella di sopra no, dovevi togliere quella di sopra. No, ma che manchi i fratellisti di sotto, come una macchina. Ma che cominciato da basso. Questa è un'ombra. Adesso anche d'amore, ma non troppo. Scusa, ma noioso. No, io so. Dunque, no, io so, sei bravo. Ciuffi veramente so brutti che hai i piedi con le patate, gli occhi gelatinosi e l'alitosi. No, io so che non mi piaci. Della serie, meglio subito che troppo. Concludiamo dopo il giro. Faccio questa, l'erotica Cleopatra. La numero è praticamente la 3. Nel frattempo, prima vorrei ricordarvi che chi compra un CD avrà una foto mia seminuda autografata. Questa manda macchina. Grazie. L'intorno fa una vita omologata, ma la notte del fine settimana l'erotica Cleopatra gira sola nelle tenebre tutta ubriaca. In macchina va piano come una lumaca, perché sa che è ubriaca, e allora va piano come una lumaca. L'erotica Cleopatra balla, balla tra la gente, ma non gliene frega niente. Torna in sé e dice: oh, ballo tra la gente, ma non me ne frega niente. L'erotica Cleopatra, mentre fotte, mangia cioccolata e gode, gode, gode, gode, gode, gode, ah, come gode, perché pensa: ah, come sono erotica Cleopatra. L'erotica Cleopatra si bacia nello specchio, sussurrandosi parole che le piacciono parecchio: testuggine, puss, ecstasy, motore, trapano, afta. L'erotica Cleopatra del venir non ha certezza, deve fare solo un po' chiarezza. È tutto l'ombra. Mio nome è chi sarà? Gerbia, c'è il bastone lì, eccolo. Spoglio. Anche qua. Questo sembra un ora più. È cambiato. Ma che vecchi lo hai? Zero. Tratto dal libro. Ma c'è il contatore dietro. Tratto dal libro. Donna. 100 modi per essere donna. Donna intelligente. Sono un uomo assai fortunato, perché proprio a me è capitato. Non sei una donna come qualsiasi altra. Tu sei intelligente, tu sei scaltra. Tu sai fottermi con grazia e coltura. E vai con gli altri, fai bella figura. Ma quando stai a letto, altro che arte, ecco il tuo istinto che d'impeto parte. Dimentichi il Caravaggio, il Giorgione, il Mantegna e pensi soltanto alla tua artistica. E allora ti chiedo, qual è il pittore che meglio ha usato il suo pennello? E tu senza dubbio rispondi, certamente Paolo Uccello. Passata la notte, tutto torna normale ed io torno ad essere il solito animale. Lo so, non sono in grado di analizzare l'opera di Pirandello, ma tu prova a fare analisi logica di questo pisello. Sarai anche una donna di grande sapere, ma non è un mirò la cacca che esce dal sedere. Sì, mi verrei a dire che sono vuoto e anche un po' volgare, ma come ti piace sto cazzo popolare? Appena lo vedi diventi più buona, come ti piace sta bella icona. Quindi, amore dalle immense intelligenza, vai a fanculo te e la sana divenza. Per concludere, un po' di poesie, non le mie, di Felice di gioia. No, ma Felice di gioia! Dove è andato Jerry? La prima poesia. Questo gelido muore. Seconda poesia. Vabbè, abbina amore. E se? E ma? Ma perché? Ma però? E che? Ma che cazzo? Terza poesia. Brivido caldo. Quarta poesia. Blackout d'amore. Oh, oh luce dei miei occhi, perché te spegni? E vorrei concludere con la poesia più intensa di Felice di gioia, quello che esprime tutta la poetica di Felice di gioia, dedicata alla sua fidanzata. La poesia si intitola Le parole che non ti ho detto. Grazie. Analisi del sangue. Oggi ho fatto un'analisi del sangue e ho deciso che non la farò mai più. Mai più. Mai, mai più. Più, più, mai più. Mai, mai, mai più. Più, più, più, mai, mai più. Più, più, mai più. Mai più. Mai più. Mai più, mai più. Mai più. Basta. Vorrei ringraziare il musico. L'eco, l'eco. Il microfono non funziona, ma c'è l'eco. Anche logico, tra l'altro, è ecologico. Dato che domani parte il treno, oggi era. Oggi il treno era così. La gente fumava, parlava, diceva, faceva lettera, testamento. Ero seduto in un posto di seconda. Alla mia destra avevo una persona molto sinistra, alla mia sinistra un omeopatico, mentre sulla mia destra un mago con la sua valletta tagliata in tre pezzi in una valigia, sulla mia sinistra una 500 tamponata, così sulla mia destra una coppia di sposi separati senza meta, certamente sulla mia sinistra tre galline sul comò, nonché sulla mia destra un barabaccio cicolò. Destè sulla mia sinistra un professore molto alto, ahimè sulla mia destra 25 boy scout, ero felice. Perché in questo scompartimento c'era molta allegria. Tutti parlavano insieme mentre mangiavano croccanti e assillanti fette biscottate. Ma questo clima idilliaco cessò di esistere quando arrivammo alla stazione di Venarotta, a P. Un paese di 1328 abitanti. lì scesero tutti. A quel punto io, che dovevo scendere a Bucarest, rimasi solo. Mi inginocchiai guardando il cielo e urlai in silenzio parole gesticolanti dall'interno del mio essere passeggero. Cappotto di legno. Montagne di sale, piovuto da nuvole di panna, bagnano costantemente il giaciglio del mio davanzale, dal quale noto il passare degli anni buttati distrattamente sui documenti tenutari dei miei dati anagrafici, i quali troveranno la loro notorietà solo il giorno che vestirò l'insolito cappotto di legno. Scusate, ma non c'è la punteggiatura. Ne dico un'altra. Sono brevi, quindi. Perché metterci punti? Tipologia 03. Questo cielo di piombo mi pressa il cervello. Sono così pressato che quando cammino sembra che qualcuno mi spinga verso il terreno. Il mare d'intorno mi stringe il collo come un maglione dolce vita. Penso ai pesci che tutto questo non sentono sicuramente. Non sanno neanche cosa sia il maglione dolce vita. Bravo! Allegra, senza fatto risale, giusto per fare risale. La morte è vita. Ah, ecco. E dai, ride. Vai, vai. Vai, è importante, vai, ragazzi. Ci accompagna, ce l'abbiamo sempre qui. Ma sono quanti anni? Quando non ci sarebbe però più. Però no. Allora, ok? Quando muoio sto tanto male. E per non soffrire pensa a cosa c'è di buono nella morte. Rifletto, in effetti mi viene in mente che morire sia una missione umanitaria. Renderò fertili quei 2 metri di terra che avrò su di me. E poi anch'io contribuirò a far sì che il bigattino di prima porta non si estingua. Vedrò il sorriso felice del figlio 14enne del vecchino che con i soldi del mio funerale potrà ricevere il motorino nuovo. Finalmente non vedrò più le persone che ho sempre odiato. Potrò dormire quanto voglio senza svegliarmi mai più presto la mattina. Non pagherò più gas, luce, telefono e avrò una convenzione con la CEA per la luce perpetua. Non mi farò più la barba e potrò portare a lungo il mio vestito preferito. Non ingrasserò più, anzi farò ingrassare. Non mi verrà più la febbre, il raffreddore e il mal di testa. Non assumerò più medicinali. E starò al fresco sempre, facendo in barba e aromatismi. E il mio cuore non batterà più per nessuna donna. Quindi, dopo aver analizzato solo una piccola parte del positivo della morte, sono convinto che oltre all'incontro inevitabile con essa, c'è una grossa convenienza nel vivere felicemente la morte. Mi raccomando. Grazie. Abbiamo finito. Da 3, 2, 3 si fa. Beh, Corrado, dai, devo dire. Una, te la senti? Potresti fare quella del treno, ma il treno era così. E domani sarà colato. Sì, così. Alcuni se no Cristina, perché per me oggi c'è la traccia del numero 71. Paganini. Va bene, lei mette un'altra traccia. Non ripeti. Allora Fabio, dai, no, tu devi stare a adesso vedrà che vado a vendere CD, quindi via con un altro pezzo. Va bene, allora chiudiamo, dai. Saluto a tutti. Salutiamo. Ciao. Che volete? Un altro pezzo. La gallina della parte. La gallina. La gallina. Rileggo la gallina da capo? Ma no, no, terzo episodio. Ah. Il ritorno. Scusate, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guarda, prego, guar